olha. Olha, meu da. Mastro Beat, coach Daka. Dai, dai. Salve a tutti, mi presento, ero Deka. Il beat è olfo ed il testo è una ciopeca. Giga mega tega. Per questa lirica incompresa ed incomprensibile. Non hai mai sentito qualcosa di simile? E pensi che con l'hip hop sia incompatibile? Che sega, ma il ragionamento è giusto e non fa una piega. Infatti ti do ragione, sono scarso, ma qualcosa è cambiato da che sono apparso. E poi Mastro Beat fa basi d'aspettino, non immagini gocce d'acqua da quanto tempo aspettino di uscire fuori dal guscio. Le porte sono sempre aperte, basterebbe oltrepassare l'uscio. Fruscio, nelle orecchie un fischio resisto, ma il segnale è amplificato come da un transistor. E c'è il rischio che non si realizzi un cazzo e si sciolga tutto quanto a contatto con il suolo come fiocchi di nevischio. Agli occhi su un disco, è il nostro, è meglio che lo pigli perché è quello minor costo, ma è tosto. Fidati, ha qualcosa di particolare, non so, qualcosa che gli altri non hanno, perché gli altri lo devono ancora inventare. Vai, papà, parti sulla strada delle arti e mestieri, sulla via che tu speri ti porti a dominare l'hip hop. Oh no, non ci riesci, ci vuole un centimetro dalla cima, ferito e ferito della tua stessa rima, ma no problema, rimarrà internos. Sulla strada delle arti per bagnarti, alleati tanti come i contanti nel deposito di Paperone, o i passaggi in un trinomio, tanti quanti matti che trovi in un manicomio. A me è un encomio, al mio fratello yo yo, rapper italiano cloroformio. Vi prego fatelo dormire, altrimenti lui farà dormire me. Rispetto la sua esperienza, ma per me lui non fa rap, ma brodo di giuggiole per amorfi, muovi testa, vestiti a capi larghi, griffati che ti fanno yo per salutarti quando vai a quella festa che chiamano party. Cazzo, non incazzarti, non incazzatevi se mi piego in due dalle risate quando vi vedo. Ma come cazzo vi atteggiate? Vai, papà, parti sulla strada delle arti e mestieri, sulla via che tu speri ti porti a dominare l'hip hop. Oh no, non ci riesci, ci vuole un centimetro dalla cima, ferito e ferito della tua stessa rima, ma no problema, rimarrà internos. Io non sono tipo da dire yo, e non mi piace quando sento dire yo. Ormai l'han detto tutti da quando è nato l'hip hop. Ormai ha rotto il cazzo come le teleserie soap. Come se non ci fossero già abbastanza qua in questo pianeta. Come se i culi deboli compresi da rulli diventano meta. Come se i culi deboli non fossero già parati da su bizzarretta. Sarebbe bello fare le mule con culi molli a fare la dieta. Cosa c'entra? Non c'entra proprio un cazzo. Avevo una gran voglia di inserirlo in questo pezzo. Farà pure cazzate a raffica, ma va che non mi sfiorino, perché potrei incazzarmi, far sì che i putei ti ignorino. Non c'è ombra di dubbio che dall'ombra spacca tutto e gocce d'acca spacca la crappa al lupo di Gubbio. Non c'è ombra di dubbio che dall'ombra spacca tutto e gocce d'acca spacca la crappa al lupo di Gubbio. Gocce d'acca è un'alleanza triplice, una ruspice esamina le viscere degli animali sacrificati e predice che le gocce d'acca arriveranno all'apice. Qui non ci si cimenta pratiche sadomasochistiche, il piacere che suscitano le nostre ritmiche liriche riporta corpo e mente in grembo d'atmosfere mistiche. Vai, papà, parti sulla strada delle arti e mestieri, sulla via che tu speri ti porti a dominare l'hip hop. Oh no, non ci riesci, ci vuole un centimetro dalla cima, ferito e ferito della tua stessa rima, ma no problema, rimarrà internos. Sentite quella. Oh, l'altro giorno stavo parlando con un tipo che fa: sì, ma lo sai qual è il, come si chiama, il sovrano dei femori con un occhio solo? E faccio: no, non lo so. E lui fa: e lui? Polifemore. Vai, grande, bella storia. Oh, a tutti quelli a cui l'ho raccontata non hanno riso. Sono l'unico. Solo io. Pasta? Solo pasta. Benvenuti. Sono tutti e basta. Alfonso, Olfo, so, Olfo.